Vi ho parlato la settimana scorsa di un libro di Stephen King, dell'ultimo libro di King sulla narrativa dell'orrore. Vorrei parlarvi oggi di un altro libro, sempre di riflessione. Per queste settimane stiamo sul pensiero e sul commento alle opere invece letterarie. È un libro abbastanza interessante, molto più smilzo, molto più agile di quello di King. Si chiama Cyberpunk e Splatterpunk, l'autore è Fabio Giovannini, il sottotitolo Guida a due culture di fine millennio, ed è uscito da poco, è una piccola casa editrice torinese che si chiama romana, che si chiama Detta News. E forse avrete qualche difficoltà perché non sempre, insomma, si trova, però se vi interessa cercatelo. Fabio Giovannini, forse qualcuno di voi il nome se lo ricorda, è uno dei redattori di Arancia Blu, che è stato supplemento del Manifesto per un tot di mesi, quasi un anno, due anni, non so, e adesso si è da poco, da questo numero, da questo mese credo, separato, autonomizzato, e quindi è una sorta di mensile di tipo ecologico, che però ha una parte anche di cosiddetta ecologia dell'immaginario, che cura appunto Fabio Giovannini, che è uno studioso di letterature popolari e di cinema popolare, di musica popolare, insomma di fenomeni di cultura popolare. Direi che è molto opportuno questo librettino, perché fa il punto su due tendenze che sono nate entrambe come tendenze, per così dire, letterario culturali, con ascendenze cinematografiche, con una forte ispirazione musicale, come ovvio dato il suffisso punk nei entrambi i nomi, cyberpunk e splatterpunk, ma che presto sono diventate due fenomeni, per così dire, di costume. Ed è giusto, secondo me, accomunarle, perché esprimono entrambe in modo molto forte una, per così dire, un atteggiamento di ribellione o comunque di insoddisfazione, di non contentezza, insomma, per come vanno le cose, sia nel mondo della cultura che ovviamente nel mondo più generale, cioè nel mondo della vita quotidiana di tutti noi. Per dare un giudizio, devo dire, complessivo su questo librettino, che è un librettino per la gran parte informativo, cioè che vi dà delle informazioni su come sono nate, su come sono sviluppate, eccetera, questi due fenomeni, allora vi dirò che complessivamente mi sembra che l'informazione sia complessivamente, dico, abbastanza corretta, e soprattutto va a cercare gli antecedenti di questi appunto fenomeni. Per esempio cita giustamente Dick Ballard per quanto riguarda le ascendenze del cyberpunk, cita, comunque fa una introduzione tutta abbastanza interessante, secondo me, che poi sono un profano di queste cose, sul fenomeno punk e su quello che ha voluto dire non solo per la musica ma più in generale per la cultura. Devo dire che ci sono numerose, o perlomeno abbastanza numerose per me, insomma, che un po' mi occupo anch'io di queste cose, inesattezze qua e là nel libro. Ci sono vari libri di cui esiste un'edizione italiana che non vengono dati, sono delle cose che vi dico prima perché voi, insomma, non pensiate che tutto quello che c'è scritto qui dal punto di vista informativo è oro colato. Però complessivamente, per chi voglia farsi anche un'idea rapida, è un libro molto piccolo, si legge in brevissimo tempo, di questi appunto fenomeni, vale la pena di farlo. Perché lo ha scritto fondamentalmente Giovannini? Qui vengo alla seconda critica invece che voglio fare, critica, voglio dire, benevola sempre, ma insomma, però pur sempre critica a questo libro. Fondamentalmente perché quello che interessa di più, credo, a Giovannini, quello che si capisce, insomma, che da questo libro che interessa di più di questi due fenomeni è proprio la loro valenza politica. E infatti il punto centrale del libro sta a metà, grosso modo, del libro, in un capitoletto intitolato Alcune considerazioni critiche, in cui appunto Giovannini se la prende soprattutto con il cyberpunk, che è il più politico in fondo dei due, diciamo, fenomeni, perché è quello che soprattutto qua in Italia, ma ovviamente anche in altri paesi d'Europa, ha dato luogo a una costellazione di piccoli gruppi, piccoli movimenti che ruotano intorno ad alcuni circoli, ad alcune realtà giovanili di opposizione, insomma di opposizione estrema del nostro paese, ecco, e lui gli imputa a tutta questa, diciamo, realtà, come imputa in parte a Bifo e a quelli che si raccolgono intorno alla rivista Ario, o in parte intorno a quelli di Roma che si raccolgono intorno a Luogo Comune, una gli imputa in qualche modo una sorta di ottimismo tecnologico o il rischio di cadere in una specie di ottimismo della, diciamo, tecnologia. Credo che questa tesi sia molto discutibile. Io credo che la valutazione anche politica del movimento cyberpunk in Italia sia un po' più complessa di come la dà, diciamo, Giovannini qua, il quale, diciamo, peraltro argomenta un po' la sua tesi, quindi forse in questa breve nota io non gli rendo del tutto, diciamo, ragione. Volevo solo segnalare, così anche per chi poi leggerà questa cosa, un minimo di distanza un po' da questa che mi sembra un po' una sorta di lezioncina politica, anche un po' per certi versi tradizionale, anche se lui la fa con molto garbo, nei confronti invece di un movimento molto ricco e che secondo me, pur con tutte le sue, se anche vogliamo, ingenuità, è quello che ha espresso anche politicamente in Italia fra le poche cose nuove di questi ultimi 10 anni. Per il resto, appunto, ripeto, questo libro è una parte con una spiegazione della scena punk, di cosa ha voluto dire il punk per la, diciamo, cultura. Poi passa a due brevi disegni del movimento letterario cyberpunk e splatterpunk. Lo splatterpunk è quel tipo di horror che supera decisamente King, si rifà in parte a diciamo, Clive Barker. Purtroppo lo splatterpunk è ancora meno noto qua in Italia di quanto non sia il cyberpunk, cioè sono pochissime le opere veramente splatterpunk tradotte, insomma, però. E poi fa una serie di schede critiche su degli autori, appunto Dick Ballard, Gibson e Sterling per il cyberpunk, Barker, Skip Spector, Rex Miller, Ray Garton, e alcuni altri per il movimento splatterpunk, e poi dà un panorama dal punto di vista musicale, cinematografico, riviste, fumetti, teatro, eccetera, eccetera. Per il teatro devo solo, questa è un'altra esclusione imperdonabile del libro, si fa riferimento ad alcuni gruppi come la Fura del Spaus o la Mutoid West Company, ma ci si dimentica del bellissimo gruppo, purtroppo pochissimo noto qua in Italia, ma valeva la pena di parlarne, dei Survival Research Laboratories di San Francisco, diretti da Mark Pollin, che hanno fatto delle cose eccezionali, forse molto più cyberpunk di tante altre cose. Va bene, vi lascio per oggi e vi ripeto le coordinate del libro: Fabio Giovannini, Cyberpunk Splatterpunk, guida a due culture di fine millennio, sono solo 136 pagine per il modico prezzo di lire 16.000.